purtroppo si sa, la felicità trovare si spera. Se tu la cerchi di qua, la cerchi di là, ma è vana chimera. Specie nel mondo così, che cambia ogni dì la sua tentazione. Se tu vuoi vivere in pace, c'è un mezzo che piace davvero imparare. E questo è il valzer del buon umore, che ti dà l'aria del gran signor. Se a fischiettarlo si troverà ogni pensiero gli passerà. Lascia pur gli affanni, la tristezza, sai perché? Viver quei cent'anni scelterà come me. E questo è il valzer del buon umor. Prender conviene sia il male che il bene, pianto di sopra così. E questo è il valzer del buon umor, che ti dà l'aria del gran signor. Chi a fischiettarlo si proverà, ogni pensiero gli passerà. Lascia pur gli affanni, la tristezza, sai perché? Viver poi cent'anni spensierato come me. E questo è il valzer del buon umor. Render conviene sia il male che il bene, ti pianto di sopra così.